Adesso possiamo fare l'appello. Siamo contenti di essere qui, amen. E Dio è buono, Dio è grande, Dio è potente. È veramente una gioia di essere con voi. È circa 2 anni che stiamo sviluppando questa relazione con voi, la vostra chiesa, con il pastore Mirko. Ci sentiamo spesso, stiamo lavorando sui progetti, specialmente sulla formazione dei leaders emergenti. So che avete avuto un bel evento qui poche settimane fa, abbiamo avuto anche un altro evento nella regione di Catania, Sicilia, Calabria. Adesso abbiamo una richiesta per aprire e lanciare una formazione per i leaders emergenti nel nord di Milano, Bologna. Allora pregate per noi, sempre che il Signore sta aprendo delle porte, e vogliamo vedere veramente questa nazione, una gioventù, una generazione nuova di leaders chiamati al regno di Dio che fanno la differenza. Questo è il nostro cuore. E grazie per l'accoglienza, il benvenuto stasera e l'opportunità anche di portare la parola di Dio con voi. Mamma mia, perfetto. Lei dice, ma che sto a fare qui sopra? Perché a predicare è un po' ancora difficile, un po' tecnico per me, voglio essere un po' più libero, però ci sto arrivando. Un po' di pazienza, dai. Allora. So if you have your Bibles, I invite you to go to Ezekiel chapter 37. Quindi possiamo prendere le nostre Bibbie, possiamo andare al libro di Ezechiele nel capitolo 37. Would like us to read. We're going to focus on the text verses 1 to 14. E noi oggi analizzeremo il testo che va dal versetto 1 al versetto 14. And I'll ask Naomi to read the first 5 verses for time's sake. Quindi incominceremo dai primi 5 versetti. Li leggiamo insieme. La mano del Signore fu sopra di me, e il Signore mi trasportò mediante lo Spirito e mi depose in mezzo a una valle piena d'ossa. Mi fece passare presso di esse, tutta attorno. Ecco, erano numerosissime sulla superficie della valle, ed erano anche molto secche. Mi disse, figlio d'uomo, queste ossa potrebbero rivivere? E io risposi, Signore, Dio, tu lo sai. Egli mi disse, profetizza su queste ossa e di loro, ossa secche, ascoltate la parola del Signore. Così dice il Signore Dio a queste ossa, ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e voi rivivrete. Metterò su di voi dei muscoli, farò nascere su di voi della carne, vi coprirò di pelle, metterò in voi lo spirito e rivivrete. E conoscerete che io sono il Signore. Amen. The prophet Ezekiel receives a very interesting vision here. Quindi il profeta Ezechiele qui riceve una visione molto interessante. And he sees this vision of a valley that is filled with dry dead bones. E quindi lui riceve questa visione di questa valle che è piena di ossa secche. And God puts Ezekiel on the edge of this valley. E quindi Dio mette Ezechiele proprio di fronte all'orlo, sull'orlo di questa valle. And where there had been a battle between two large armies. E lì c'era stata una battaglia tra due eserciti molto grandi. And many died in this battle. E molti soldati avevano perso la vita in questa battaglia. And they were left laying there. E quindi i corpi erano stati lasciati lì. They didn't have the capacity to remove them from this valley. Non c'era la possibilità di rimuovere questi corpi da questa valle. And so they were left there to rot. E quindi erano lì, lasciati lì a marcire. And the birds came and the beasts of the fields of the air came and they began to eat at the flesh. E quindi gli animali hanno raggiunto questo posto, gli uccelli rapaci hanno incominciato a mangiare la carne di questi corpi. And the bones were scorched by the sun and they become dry dead bones. E quindi qui abbiamo delle ossa che sono state rese secche dal sole e erano lì su questa valle. Now what God is doing is he's showing, he's using this image, this vision to show Ezekiel something. Ma quello che Dio sta facendo è che sta usando questa immagine per mostrare qualcosa ad Ezechiele. He's showing the Ezekiel the spiritual captivity of Israel. Dio sta mostrando ad Ezechiele la schiavitù spirituale. They were dry and they were dead spiritually. Di questi uomini che erano secchi spiritualmente, morti spiritualmente. And Israel desperately needed a spiritual awakening. E quindi qui abbiamo Israele che in maniera disperata necessitava di essere risvegliato. They needed the breath of God upon them. Loro avevano bisogno del soffio di Dio su di loro. They needed the breath of God's spirit upon them. Avevano bisogno del soffio dello spirito di Dio su questi corpi. How many of you would agree that this nation is filled with dead, dry bones? Quanti sono d'accordo davanti al fatto che questa nazione è piena di ossa secche? But I'm here to tell you tonight. Ma io sono qui questa sera per dirvi che Dio vuole soffiare il suo spirito su queste ossa. Amen. In questa nazione. Amen. He wants to breathe on them. Lui vuole respirare, soffiare su di loro. And the incredible thing about this vision that Ezekiel receives. E la cosa incredibile di questa visione che Ezechiele riceve. Is that he has the honor for himself to understand through this story. E che lui attraverso questa storia ha l'onore di comprendere. That God is in the business of resurrection. Che Dio è interessato a resuscitare. Because we all know the story that these bones came to life and they stood up like a vast army. Perché tutti quanti conosciamo come va a finire la storia e queste ossa hanno preso vita. And God is telling Ezekiel, you are about to see this valley of dry bones come to life. E Dio dice ad Ezechiele, tu stai per vedere questa intera valle di ossa secche riprendere vita. That these people will come out of their spiritual captivity. Tu vedrai che queste persone prenderanno vita e non saranno più schiave spiritualmente. And I want to say that God desires to do this in your life and in my life tonight. E io voglio dirvi che questa sera Dio ha lo stesso desiderio di fare la stessa cosa nella tua vita e nella mia vita. And he wants to do it for this nation. E lui vuole fare questo per l'intera nazione. In verse 5 we say that breath will enter you and you will come to life. Nel verso 5 vediamo che il soffio è entrato su queste ossa e loro hanno preso vita. You will come to life. E tu tornerai a vita. You will come to life. Tu rivivrai. I will put my spirit in you, verse 14 says, and you will live. Il verso 14 dice, io metterò il mio spirito su di te e tu rivivrai. There are things that God wants to bring back to life in your life tonight. Ci sono cose nella nostra vita che Dio vuole riportare a vita, ad essere vive. Amen. Amen. You see, the sign of life. Vedete il segno, il simbolo della vita, and renewal and revival, e del rinnovamento e del risveglio. I appreciated pastor that went to this renewal movement conference. Ed è bellissimo come il vostro pastore ci ha raccontato che è andato in questo incontro di rinnovamento carismatico. When the sign of revival is that when dead, dormant things start coming back to life. Il segno di ritornare a vita è proprio quando delle cose morte che stanno lì da tanto tempo ritornano e when, prendono vita. When things seem to be beyond resuscitation, quando le cose sembrano essere oltre la possibilità di essere resuscitate, suddenly receives a new wind and a new breath entering them, bringing them back to life. Tutto ad un tratto queste ricevono questo vento, questo soffio che li riporta a vita. Tonight God wants to breathe on you. E Dio oggi vuole soffiare su di te. He wants to put his breath and his spirit on you. Lui vuole mettere il suo soffio, il suo spirito sulla tua vita. In those dry places in your life. Lui conosce i posti secchi nella nostra vita. And my prayer is that we would continue to make room for his spirit to breathe on us tonight. E la mia preghiera è che noi permettiamo a Dio di operare, facciamo spazio affinché Dio possa portare vita. And maybe tonight the valley of dry dead bones can represent certain things for you. E probabilmente questa sera la valle di ossa secche può rappresentare diverse cose per te. Areas that seem to have no life or no more vitality. Delle aree della tua vita che sembrano non avere più vita, che sembrano non avere più vitalità. No hope or no potential. Nessuna speranza, nessun potenziale. Maybe it could be a marriage situation tonight. Forse può essere una situazione nel tuo matrimonio. That's gone stale and dormant and it's dried up. Che è secca, che è stagnante. Maybe it's a family situation. Forse è una situazione nella tua famiglia. Or a friendship situation. O una situazione nelle tue amicizie. Or a financial economic situation. O una situazione che ha a che fare con le tue finanze. The reality is that God is here tonight and he wants to breathe on that situation. La realtà è che Dio oggi è qui e vuole soffiare su ognuna di quelle situazioni. Amen. Amen. Maybe it's something to do with a vision or a dream or a calling that you once received long ago. Forse ha a che fare con una visione, un sogno che tu hai ricevuto tempo fa. Or a calling on your life. O una chiamata sulla tua vita. But because of life circumstances and hardships. Ma a causa delle difficoltà, delle situazioni quotidiane. Or maybe even personal failure in your own life. O forse proprio dei fallimenti personali. It has caused that dream, that calling on your life to go dormant. A causa di tutto questo ci ritroviamo con quei sogni, con quella visione dormiente, stagnante. But tonight God wants to breathe on that situation. Ma stasera Dio vuole soffiare su quella situazione. Maybe it's a spiritual situation in your city and your nation tonight. Forse si tratta di una situazione spirituale nella tua nazione o nella tua città. It seems like there is this dark cloud and heaviness over the city. Sembra quasi ci sia questa nuvola scura sulla città. It seems like the enemy is prevailing. E sembra che il nemico stia vincendo, stia prevalendo. And his voice seems to be the loudest. E la sua voce sembra essere quella più forte. And it seems like we're having a hard time penetrating that darkness. E sembra che sia molto molto difficile irrompere in quell'oscurità. But God tonight wants to breathe over your city and over your nation. Ma Dio questa sera vuole soffiare sulla nostra città, sulla nostra nazione. Possiamo sentire un grande amen stasera? Perché questo è veramente il desiderio del nostro Dio. È tempo che l'Italia riceve un soffio dello Spirito di Dio che porta veramente un rinnovamento. The valley of dry bones represents anything that seems dormant, dead, and impossible. La valle delle ossa secche rappresenta tutto quello che è secco, che è dormiente, che è morto. But God tonight is in the business of resurrection. Ma Dio oggi è interessato a resuscitare. Amen. Amen. We see some observation in this text that I want to point out. E possiamo fare alcune osservazioni sul testo che abbiamo letto e lo vogliamo fare insieme questa sera. Number one, if we want to see renewal come to our life and to our cities and nation. Numero uno, se noi vogliamo vedere un qualcosa di nuovo, un risveglio nella nostra città, nel nostro paese, nelle nostre vite, we need to be a people of declaration. Noi dobbiamo essere delle persone che dichiarano. Amen. We need to go beyond describing our situation. Dobbiamo andare oltre il descrivere la nostra situazione. And we need to declare the word of God over that situation. Ma dobbiamo dichiarare la parola di Dio su quella situazione. Let me illustrate it to you this way. Permettetemi di farvi un'illustrazione. How many of you are directionally challenged? Yeah, quanto di voi quando guidate vi sempre perdete per strada? Quanti si perdono guidando? Anche col GPS. Infatti ci siamo persi per venire in chiesa stasera, perciò eravamo in ritardo. But my wife, she's a I'm directionally challenged. I get lost all the time. Allora, io ho problemi di orientamento, io mi perdo sempre. And I'm very glad that my wife has been with me the past 6 weeks as we visited 13 cities in 5 different provinces. E sono così contenta che contento che mia moglie sia con me in questo viaggio. Noi abbiamo visitato diverse città nelle ultime 6 settimane. And she's helped me a lot. E lei mi ha insegnato molto. Because it's very easy to get lost in Italy. Perché in Italia è molto molto semplice perdersi. Ce ne sono un centinaio di vie per arrivare a una destinazione. È una cosa incredibile. But about a year ago in our hometown in Vancouver, Canada. Ma un anno fa in Vancouver, in Canada, dove noi viviamo. We moved to another house. Noi ci siamo trasferiti in un'altra casa. And our address does not come up on the GPS. E il nostro indirizzo non si trova sul GPS, sul navigatore. When we invite our friends to come and visit, quindi quando volevamo invitare degli amici a visitarci, I send a message to them. Io che cosa faccio? Invio un messaggio ad ognuno di loro. And I give them very specific directions. E do loro delle indicazioni stradali molto specifiche. I said, please don't follow the GPS, you will never come to my house. E dico, per piacere, non seguire il navigatore, altrimenti non raggiungerei mai casa. But if you follow my directions, you will arrive to my house. Ma se segui le indicazioni che io ti sto per dare, allora arriverai a destinazione. And so I give them the directions. E quindi do loro le indicazioni. 6 o'clock is the appointment. Alle 6 è l'appuntamento. 6:10, 6:15, nobody's there. Le 6:10, le 6:15 e nessuno arriva. E poi squilla il telefono. Ah, Marco. Sì. Dove sei? Ah, ma non so neanche io dove mi trovo. Ed ho qui questi bei labbri verde, c'è una bella casa nuova grigia. Ma Marco, ma non mi descrivere dove sei, ma dichiarami dove, che strada. Ma c'è un piccolo parco, i bambini stanno giocando, questa è una bella, bella zona. Ma io non so neanche se tu sei nel paese giusto. Dichiarami la strada così io ti posso guidare a casa mia. Why do I say this illustration? Una cosa che dice questa illustrazione is that many times, è che molte volte, as believers of God, we're guilty of it. In quanto credenti, noi siamo colpevoli di questo. We tend to describe our situations. Noi tendiamo a descrivere le nostre situazioni. We tend to describe what is going on around us. E descriviamo tutto quello che succede attorno a noi. We describe our problems. E descriviamo i nostri problemi. We describe, oh pastor, you don't understand what I'm going through. E siamo lì a descrivere, pastore, tu non puoi capire che cosa sto affrontando. We describe our financial mess. E descriviamo le nostre difficoltà finanziarie. We describe our troubles of our marriage. Le nostre difficoltà all'interno del matrimonio, le descriviamo. We describe all of our situations at work that are troubling us. Descriviamo le situazioni al lavoro e le difficoltà che incontriamo. We describe how bad the economy in Italy is. E descriviamo quanto è terribile la situazione economica in Italia. I've been coming here now for 6 years and I hear this all the time. Io vengo qui in Italia ormai da 6 anni e ascolto molto questo. I hear you describe the issues with the government and how bad the government is. E ascolto descrizioni di quanto è terribile il nostro governo e di quanto non funzioni in maniera efficace. And so we are very good at describing. E quindi siamo molto bravi a descrivere. At the cost of declaring the word of God. Piuttosto che dichiarare la parola di Dio. We need to be a people of declaration. Noi abbiamo bisogno di essere persone che dichiarano la parola. We need to declare the word of God to the mountain that's before us. Abbiamo bisogno di confessare la parola di Dio alla montagna che ci sta dinanzi. We need to start declaring the word of God towards that problem that we're facing tonight. Dobbiamo confessare la parola di Dio a quel problema che stiamo affrontando. We need to declare the word of God over the nation and over the city. Confessare la parola sulla nazione, sulla nostra città. We need to declare the word of God. Noi dobbiamo confessare la parola di Dio. We need to declare the promises of God. Abbiamo bisogno di confessare le promesse di Dio. And the word of God says that when we declare his word, e la parola di Dio dice che quando noi confessiamo la sua parola, it will not return void. Non ritornerà a vuoto. Because the power is in the word of God. Perché la parola di Dio è potente, c'è potenza. And so we need to be a people of declaration. E quindi dobbiamo essere persone che confessano. The prophet Ezekiel was not instructed to, God didn't tell Ezekiel, describe to me what you see. Dio non ha chiesto ad Ezechiele, ok Ezechiele, descrivimi quello che vedi. He said, declare the word of God, prophesy to these dry dead bones. Ma lui le ha detto, confessa la parola di Dio, profetizza su queste ossa secche dinanzi a te. Don't you think that we can see change happening when we declare the word of God? Non pensate che davvero noi potremmo vedere cambiamenti succedere se solo confessassimo la parola di Dio? Our youngest son Daniel was born in 2000, February 14. Nel 2000, il 14 febbraio, il nostro figlio minore, Daniele, è nato. And he was born with a genetic disorder. E lui è nato con un problema genetico. And he was very sick. Era molto, molto malato. And his future was unknown. E il suo futuro, molto incerto. He's traveling with us, but he's not here tonight. He's with one of the families. Lui è con noi in viaggio, ma non è qui. In chiesa e con degli amici. And I'll never forget when he was 6 months old. So Daniel was born actually with one kidney. Quindi Daniel è nato con un rene. And it was only 50% functional. E quel rene funzionava solo al 50%. And the geneticist told us. E quindi il dottore ci ha chiamato. And he says, your son will never get past the 6-year-old level. E ci ha detto, tuo figlio non sopravviverà oltre i 6 anni. And he will never live an independent life. E non sarà mai in grado di vivere una vita in maniera autonoma. At 6 weeks old, he had an open heart surgery. Aveva solo 6 settimane e ha subito un'operazione al cuore. And we were in a season, in a valley. E noi ci trovavamo proprio nel bel mezzo della valle. Where our lives were crushed. Dove le nostre vite erano sofferenti. And I'll never forget, at 6 months old, he had the strong fever that he could not break. Quindi Daniel aveva 6 mesi e è successo che ha avuto una febbre molto, molto, molto alta. Non poteva neanche respirare. No antibiotics was able to break this fever. E nessun antibiotico era capace di far scendere questa febbre. And so one afternoon I was very discouraged. E quindi ero molto, molto scoraggiato questo pomeriggio in modo particolare. And I remember going into my office. Mi ricordo che sono andato nel mio ufficio a casa. And you need to know that 6 months before Daniel was born, God told us to resign our pastorate at the church that we were pastoring. E dovete sapere che 6 mesi prima della nascita di Daniel, il Signore ci aveva chiesto di lasciare il nostro lavoro in chiesa. And to live on faith for 1 year. E quindi di vivere sulla base della fede per un anno intero. Because he said, I want to do a deeper work in your life. Perché lui ci ha detto, Dio ci ha detto, io voglio fare un lavoro più profondo nella vostra vita. And then Daniel was born 6 months later with all these situations. E quindi 6 mesi dopo da quella decisione, Daniel è nato con quella situazione fisica. And so I was in my office very discouraged. Quindi ero lì nel mio ufficio molto scoraggiato. And I was crying out to God. E stavo proprio gridando a Dio. And I was saying, Lord, what are you doing? E stavo dicendo, Signore, ma cosa stai facendo? This is such a difficult situation. Questa è una situazione così difficile. I can't even support my family. Io non posso neanche essere di supporto alla mia famiglia. And my son is almost ready to die. Non posso provvedere per la mia famiglia e mio figlio sta quasi per morire. I don't even feel like I'm even called to the ministry anymore. Non sento neanche di essere chiamato al ministerio. I was so discouraged. Ero proprio molto scoraggiato. We walked through the valley of the shadow of death. Noi stavamo attraversando la valle dell'ombra della morte. And I was crying out to God. Ed ero lì che gridavo a Dio. And he whispered to me. E lui mi ha sussurrato. And he said, "Son, you are blessed." E mi ha detto, figlio, tu sei benedetto. You are blessed. Tu sei benedetto. And I said, "But God, I don't feel blessed." E io gli ho detto, ma Dio, io non mi sento proprio benedetto. Have you ever been in that place in your life? Avete mai sperimentato qualcosa di simile nella vostra vita? But God, I don't feel blessed right now. Everything's going wrong. Ma Dio, tutto è un disastro. Io non mi sento benedetto. Son, you are blessed. Figlio, tu sei benedetto. And as I began to hear that, I began to slowly declare that within my heart. E quando ho incominciato a sentire quelle parole, lentamente ho incominciato anche a confessarle. Yes, I am blessed. Sì. Sì, io sono benedetto. I have a beautiful wife. Sì, sì, sì, io ho una moglie bellissima. I have another son who's healthy. Ho un altro figlio che è sano. I have a house, a roof over my head. Ho un tetto sulla mia testa. There's food on my table. C'è del cibo sul mio tavolo. I have friends around us, encouraging us, praying for us. Ho degli amici che sono una fonte di incoraggiamento e che pregano per noi. I am blessed. Io sono benedetto. And I began to declare that. E quindi ho cominciato a confessare questo. And I began, and faith began to rise up within me. E la fede è incominciata a crescere and dentro di me. And hope began to rise up. E lo stesso, la speranza è incominciato a crescere. And I began to declare, I am blessed. E ho incominciato proprio a confessare, io sono benedetto. I am called. Io sono chiamato. I am anointed. Io sono unto. I am appointed. Io sono scelto. God, you have a great plan for us. Dio, tu hai un piano meraviglioso per you noi. You are in control. Tu sei al controllo. I declare life in this situation. Io confesso vita in I questa situazione. I declare provision. Io confesso che tu provvedi per questa situazione. And after that moment I went back in the living room and Liliana was carrying Daniel in her arms. E dopo quel momento sono andata nel salone, c'era mia moglie Liliana con in braccio nostro figlio. And I told her what happened. E quindi le ho detto quello che avevo appena sperimentato. And I said, "We have a choice to make." E le ho detto, noi dobbiamo fare una scelta. We're either going to describe our situation of our son. Possiamo o descrivere la situazione di nostro figlio. Or we are going to begin to declare healing. And we're going to begin to declare the touch of God. O possiamo incominciare a confessare guarigione. Possiamo incominciare a confessare il tocco di Dio. Amen. Amen. In that moment we invited our friends. They came, they anointed Daniel and anointed him with oil. E quindi abbiamo invitato i nostri amici e loro hanno unto con l'olio Daniel e hanno incominciato a pregare per guarigione. And within a few hours, his fever broke. E in poche ore la febbre si è abbassata. And we have seen a progressive healing on the life of Daniel since that day. E da quel giorno in poi ancora oggi vediamo una guarigione graduale in nostro figlio. He's impacted hundreds of people. Lui è stato di impatto per centinaia di persone. In the church, at school. Nella chiesa, a scuola. Wherever he is. I'm sad that he's not here tonight because you would be blessed. Mi dispiace che non sia qui questa sera perché ne sareste stati benedetti, ma lui è una benedizione per chiunque lo circonda. But I tell you that story to tell you the power of declaration. Ma io vi ho raccontato questa storia per farvi capire proprio la potenza che c'è nel confessare la parola di Dio. And so you need to declare to your mountain tonight. E quindi tu hai bisogno di confessare, di dichiarare vittoria sulla montagna davanti a te. If you're feeling defeated tonight in Christ Jesus, declare I am victorious and more than a conqueror. Se ti senti sconfitto questa sera, allora nel nome di Gesù puoi confessare, no, io sono vincitore e sono più che conquistatore. If you're feeling without hope tonight, you can declare that I have hope in Christ because he is the hope of glory. Se ti senti disperato, tu puoi confessare, no, io ho speranza in Dio perché lui è la speranza di gloria. And if you're feeling weak tonight, you can declare that you have the power of the Holy Spirit to overcome all things and temptations. Se ti senti debole, Amen. Tu puoi dichiarare, puoi confessare che lo Spirito Santo vive su di te e tu puoi andare oltre e superare la tentazione o il peccato. For the Lord is my strength, my strong tower and my strength in times of weakness. Perché Dio è la mia forza, è la mia rocca forte, è la mia torre di salvezza. If you're feeling lonely tonight, you can declare that God will not abandon me, He will not leave me, He will not forsake me. Se ti senti solo questa sera, tu puoi confessare: il mio Dio, il mio Signore non mi abbandonerà, non si scorderà di me, perché Lui è con me dovunque io vada. Even though I walk through the valley of the shadow of death, He will be with me. Anche se dovessi camminare nella valle dell'ombra della morte, Lui sarà con me. Let's declare today the word of God, the promise of God. Confessiamolo oggi, confessiamo la parola di Dio. And see revival come in your own life. E così possiamo vedere un risveglio succedere nella nostra vita. The second thing that we see in this story, in this vision, la seconda cosa che vediamo attraverso questa visione, is that Ezekiel did as he was commanded. È che Ezechiele ha fatto esattamente quello che Dio gli ha comandato. It was unreasonable obedience. Si tratta di un'obbedienza irragionevole, irrazionale. I mean, the Lord literally told Ezekiel to go in this seminary, in this cemetery, and declare and prophesy. Cioè qui letteralmente abbiamo Dio che dice ad Ezechiele di andare in un cimitero pieno di ossa secche e di confessare parole. Can you imagine if God asked you to do something like that? Cioè, vi potete immaginare se Dio magari domandasse a te di fare la stessa cosa? It doesn't make sense. Non ha senso. It's irrational. È qualcosa di irrazionale. But yet the Bible says that I prophesied as I was commanded. Tuttavia, la parola dice che Ezechiele ha profetizzato proprio come gli era stato comandato. Unreasonable obedience means you don't understand it. Un'obbedienza irragionale significa che tu non la capisci. That it doesn't always make sense. Che non ha senso logico. It's unreasonable obedience. È un'obbedienza irrazionale. God has asked me to do something and it seems a little bit crazy. Dio mi ha chiesto di fare qualcosa e sembra una pazzia. God, I don't quite get this. Dio, veramente io non sto comprendendo molto bene. But we obey before we can fully understand. Ma noi ubbidiamo prima di poter comprendere completamente. See, there are some things that God will ask of us that we won't always fully understand. Ci sono delle cose che Dio ci domanderà di fare e che noi non comprenderemo completamente. But you need to take the step of obedience. Ma dobbiamo fare quel passo di ubbidienza. Which requires faith and sometimes it will even require risk. Che richiede fede e molte volte richiederà anche il correre un rischio. And I don't know about you, but when I experienced Ecclesia last year, e io non so per voi, ma quando io ero ad Ecclesia la conferenza l'anno scorso, I remember some of your leaders saying, io mi ricordo alcuni dei vostri leader che hanno detto, you know, this required a lot of faith and risk on our part. Sapete, Ecclesia ha richiesto tanta fede e un alto livello di rischio. And I know God is calling you to another level of ecclesia this coming year. E io so che Dio vi sta chiamando a un livello ancora più alto con la conferenza quest'anno. That's calling you to another step of faith and another level of risk. Ci sta chiamando ad un altro livello di rischio, ad altri passi di fede. And maybe in some cases it seems like it's an unreasonable thing that He's asking you to do. E molto probabilmente in alcuni casi sembra qualcosa di completamente irrazionale quello che Dio ci sta chiedendo di fare. But here's one of the things that I've learned in my life and ministry. Ma questa è una delle cose che io ho imparato nella mia vita nel ministero. That when you want God to move in an uncommon way, che quando tu vuoi che Dio si muova in un modo non comune, sometimes God is going to ask you to do some unreasonable thing. Dio in quel caso ti domanderà di fare delle cose che non hanno senso, che sono irragionevoli. When Liliana, after we went through the year of Daniel's sickness, Dopo che abbiamo attraversato l'anno, insomma, nel quale Daniel era malato. And after 1 year, God called us to go pastor a little church. Dopo il primo anno, Dio ci ha chiamato ad essere pastori di una chiesa. Ma era una chiesa molto morta. Completamente. Una chiesa che ci poteva entrare un 600 persone e no, era ridotta a 60 persone. And 75% were seniors. E il 75% erano anziani. The building was falling apart. La struttura era non era molto nuova, stava per crollare. They didn't have money to fix the building. E non c'erano dei soldi per poter aggiustare when la struttura. When you walked in the foyer, there was buckets in the entrance of the church collecting the rain from the leak of the roof. E quindi tu entravi nella chiesa e nel foyer all'ingresso c'erano tanti secchi d'acqua che erano lì perché pioveva dal tetto. There was a cappella worship. C'era la lode e l'adorazione a cappella. Con una coppia che avevano lo stile del country. Ho detto, ma Signore, dove mi stai portando? Non voglio andare a questo posto. There's nothing there for me to build. Non c'è niente lì che io possa edificare, che possa costruire. Most of the people that were left were tired and weary and said, "Don't bother me. I'm not into change." La maggior parte delle persone che erano rimaste lì erano non avevano tanta voglia di cambiamento. Mi avevano detto, "Guarda, non ti preoccupare, tanto io non cambio." And I didn't want to go there. E io non volevo andare lì. But we heard God's call. Ma noi avevamo sentito la parola, la chiamata di Dio. And I'm shortening the story because it was amazing the way God literally almost audibly spoke to us to go there. E sto rendendo una lunga storia molto corta perché è incredibile come in maniera proprio così concreta Dio ha parlato al nostro orecchio per poter far sì che andassimo lì. And so we went. E quindi alla fine siamo andati. They couldn't even afford to pay us as pastors. La chiesa non era neanche in grado di sostenerci economicamente in quanto pastori. And so our district of our denominational district said we'll sign an 18-month contract with you. E quindi il nostro distretto denominazionale ci ha detto ok, facciamo un contratto di 18 mesi. And within 18 months. E entro 18 mesi you should bring renewal to this church. Tu dovresti e dovrai portare un risveglio in questa chiesa. And they'll be able to support you. Così che la chiesa possa essere in grado di supportarti. It didn't make sense to us. Cioè non aveva un senso logico per noi. And I remember saying, God, there's nothing here for me to work with. E io mi ricordo dire proprio a Dio, Dio, qui non c'è niente niente con cui io possa lavorare. Costruire questa chiesa. And he said to me, e lui mi ha detto, all I want, tutto quello che voglio, is your obedience. È la tua obbedienza. And let me build the church. E poi lui ha edificato e costruito la chiesa. Let me build the church. Lui ha costruito la chiesa. And I remember our first Sunday there. E io mi ricordo la nostra prima domenica lì in quella chiesa. It was painful. È stato doloroso. I mean, we came from a church of 3,500 people. Cioè, noi venivamo da una chiesa di 3,500 membri. Beautiful worship. Un lode e adorazione bellissima. And we had everything. Cioè, avevamo tutto in quella chiesa. And here I am in this dying church. E lì io mi trovo invece in questa chiesa così diversa. And I remember sitting in the front row and I was anxious and nervous and mi ricordo, listening to this country music. E mi ricordo che ero lì in prima fila e mi sentivo così nervoso e ansioso e stavo lì ascoltando questa musica country. E mia moglie mi diceva, calmati che le persone si stanno guardando. Almeno fai finto che sei contento. Ma che contento, io voglio scappare da qui. And every Sunday from the very first Sunday that we started working there. E dalla prima domenica che abbiamo incominciato a lavorare in questa chiesa, domenica dopo domenica. New people were coming to the church. Nuove persone hanno incominciato a venire in chiesa. From all over the city. Da tutte le parti della città. And they would come and they would see Daniel. E quindi loro venivano e vedevano Daniel. In the front row. In prima fila. With all of his challenges. Con tutte le sue sfide. Worshiping God. E problematiche fisiche. Clapping his hands. Che era lì ad adorare, a battere le mani. And people began to get impacted. E le persone hanno cominciato ad essere molto impattate da questo. And people would come to us after the service to greet us. Quindi le persone poi venivano dopo l'incontro per salutarci. And they said, Pastor. E dicevano, Pastore. You know, this style of church, it really isn't something we're into. It's not our style of church. Sapete, dicevano, Pastore, lo stile di questa chiesa, in realtà non è proprio il nostro stile. E noi ci diciamo, ma non ti preoccupare, non è neanche il nostro style che ci piace. Ti comprendiamo. Però dicevano, ma sappiamo che il Signore ci ha portato qui perché Lui può fare qualche cosa di grande. And in 7 years, e in 7 anni, we saw that church grow to 400 people. Abbiamo visto la chiesa crescere fino ad avere 400 membri. Young people, young families. Persone giovani, famiglie giovani. We had a brand new worship. Abbiamo un team di lieder di adorazione completamente we nuovo. We planted 25 small groups in the city. Abbiamo intorno a tutta la città 25 gruppi in casa. Out of that we planted another church in another city that's over 200 people today. E come conseguenza abbiamo fondato un'altra chiesa in una città vicina che adesso conta 200 membri. Why? Perché? Because it was about our irrational obedience. Perché riguardava la nostra ubbidienza irrazionale. Let me close with this and then I will stop because the time is gone. Voglio concludere con questo. Because I feel this really strong on my heart to close with this. Perché sento molto forte nel mio cuore di concludere con queste parole che vi sto per dire. David Livingstone, the father of modern day missions. David Livingstone, che è il padre delle chiese, delle missioni. In Africa, he was called to Africa. In Africa, lui è stato chiamato ad andare in Africa. When nobody wanted to go to Africa. Quando nessuno voleva andare in Africa. Africa was dark and it was hard. L'Africa era un posto tenebroso, era un posto difficile. And they asked David, "Do you want to go to Africa?" E quindi gli hanno domandato, David, vuoi andare in Africa? He says, "Yes, I will go." E lui ha detto sì. Ci vado io. He took that step of obedience. Lui ha fatto questo passo d'ubbidienza. 2 years later, 2 anni dopo, the mission agency that sent him wrote to him. L'agenzia missionaria che aveva mandato David in Africa gli ha scritto. And he said, David, have you paved a way? E l'agenzia ha detto, David, tu hai preparato la via. Il percorso for a young generation to come and help serve. Per una nuova generazione che ora può venire, può aiutare, può servire. And he wrote back to them and he said this. E David gli ha scritto come risposta dicendo. He said, the generation that I'm believing for to rise up in this present day. Ha detto la generazione che io credo che in questi tempi debba alzarsi. Aren't going to be young men and women who will come. Non è fatta di donne, ragazze e ragazzi che vogliono venire. Because there's a path that's already paved. Perché c'è un percorso che è già stato preparato per loro. But he said, I'm believing for a generation. Ma ha detto io voglio credere, voglio pregare per una generazione. Who will only come. Che verrà solamente se. There is no path at all. Se non c'è nessuna via, nessun percorso preparato. He says, I want a generation that's going to be part of paving the new path in Africa. Io voglio una generazione che sia disposta a preparare il percorso stesso. And this is the heart of NLI. E questo è il cuore di NLI. In this nation. in questa nazione. That God would raise up a generation. Che Dio possa far crescere una generazione. That is willing to take steps of irrational obedience. Che è disposta a fare dei passi di obbedienza irrazionale. To be prepared. Che è disposta ad essere preparata. To pave a path that doesn't exist in this nation. Preparata a creare un percorso che ancora non esiste in questa nazione. Because I believe the greatest ministries and churches in Italy still are yet to be birthed. Perché io credo che ancora le chiese e i ministeri più grandi in questa nazione devono ancora essere, devono the ancora essere creati. The greatest exploits are still to be realized in this nation. Le scoperte più grandi devono ancora essere fatte in questa nazione. Your best days are ahead of you. I giorni migliori per te stanno dinanzi. And God wants to take you as a church where you've never been before. E Dio ci vuole portare come chiesa in posti, in luoghi che ancora non abbiamo visitato. He wants you to take steps of irrational obedience. Lui vuole che noi siamo disposti a fare dei passi di obbedienza irragionevole. With radical faith and with risks. Con una fede radicale that will advance the kingdom of God in this nation. Che vuole far avanzare il regno di Dio in questa nazione. And so I challenge you this morning, tonight. E quindi questa sera io vi incoraggio, vi sfido. To have the courage. Ad avere il coraggio. To continue to have the courage. A continuare ad avere il coraggio. Because I know you have the courage. Perché io lo so che voi ce l'avete questo coraggio. Continue to have the courage. Quindi a continuare ad avere questo coraggio. To go somewhere where you've never been before. Di andare in posti dove non siete mai stati prima. And do something in this nation. E di fare qualcosa in questa nazione. That's never been done before. Che non è mai stata fatta prima d'ora. Amen. Amen. Come on, stand up to your feet tonight. Perché non ci alziamo questa sera? Let's lift our hands to the Lord tonight. Alziamo le nostre braccia al Signore. Father, I pray tonight. E Padre, io ti prego questa sera. That you would continue to stir the hearts of each person here. Che tu possa continuare a far muovere i cuori di ognuno di noi. Father, I thank you for your word tonight. Io ti ringrazio, Padre, per la tua parola questa sera. That you would help us to become a people of declaration. Che tu ci possa aiutare a diventare persone che confessano, che dichiarano. Father, we will not be afraid and not step back from taking steps of obedience. Che noi non possiamo avere paura e non possiamo bloccarci dal fare dei passi di ubbidienza. Father, that we would go in the power of the Holy Spirit. Che Padre, noi possiamo andare nella potenza dello Spirito Santo. That tonight you would breathe over this generation, that you would breathe over this church. Che tu questa sera possa soffiare su questa generazione, che possa soffiare su questa chiesa. That they can continue to bring to pass the next level of their vision. Che loro possano continuare ad alzare il livello della loro visione. In the mighty name of Jesus. Nel nome potente di Gesù. How many of you are in their house tonight? How many of you are in the house tonight? Quanti di voi sono qui in chiesa questa sera? That you never declared the Lord Jesus as your personal Savior. Che tu non hai mai confessato il Signore Gesù come tuo personale Salvatore. You never declared Him to be the God of your life. Non hai mai confessato che Dio è il Dio della tua vita. I'm wondering tonight if you're here. E io mi chiedo questa sera se tu sei qui. And you're saying tonight. E tu stai dicendo oggi. Is my night. È il mio giorno. I want to declare and confess Jesus as my Lord and Savior. Io voglio confessare Gesù come il mio personale Salvatore. If you're here tonight. Se tu sei qui questa sera. This is the greatest thing you can ever do. Questa è la scelta migliore che tu possa mai fare. The best decision you'll ever make in your life. La decisione migliore che possa mai prendere nella tua vita. To declare Jesus as your Lord and Savior tonight. Di confessare Gesù come tuo Salvatore personale. If that's you tonight and you want to say yes, I want to declare. Se sei tu questa sera e vuoi dire sì, io voglio fare questa confessione. That Jesus be the Lord and Savior of my life. Che Gesù è il Signore e il Salvatore della mia vita, allora puoi alzare la tua mano. If there's anybody here for the very first time saying yes to Jesus. C'è qualcuno qui che per la prima volta vuole dire sì a Gesù? Anybody here? Don't be shy. Qualcuno qui? Just lift your hand so that I can see it. Non siate timidi. Solo alza la tua mano così che io possa vederla e pregare. Everybody knows Jesus tonight. Tutti qua. Oh, there's one. Amen. Thank you. C'è una mano alzata, grazie. Anyone else? C'è qualcun altro? Wants to declare Jesus as the Lord and Savior. Qualcun altro che vuole confessare Gesù, tu sei il mio Salvatore, il mio Signore. Tonight I want to pray for this next generation of leaders. Io questa sera voglio pregare per questa nuova generazione di leader. If you're in the age of 18 to 35. Se tu sei tra i 18 e i 35 anni. And tonight you want to be part of forging a path. E tu oggi vuoi essere parte di coloro che preparano il percorso. A path in this nation that doesn't exist. Un percorso in questa nazione che ancora non esiste. And you're saying, Pastor, I want to be part of that. E tu dici, pastore, io voglio essere parte di quello. I want to be part of that army. Io voglio essere parte di quell'esercito. If that's you tonight, se sei tu questa sera, and you're between 18 and 35, e sei tra i 18 e i 35 anni, I want you to come up here. Allora io voglio invitarti a venire qui avanti. We want to pray for you. Perché voglio pregare per te. We want the Spirit of God to breathe on you as a generation tonight. Noi vogliamo che lo Spirito di Dio possa soffiare su di te, su questa generazione. Don't hold back. Non trattenerti. If you're between 18 and 35 and you want to be part of the greatest thing that God wants to do through your life. Se tu sei tra i 18 e i 35 anni e vuoi essere parte della cosa migliore, più bella che Dio possa fare attraverso la tua vita. Why don't you come this morning? Come on. Allora vieni. The rest vieni. Of us, let's give them applause tonight per as they come. Di noi, perché come non gli facciamo un bel applauso di come incoraggiamento. On. Tutti i giovani, venite qui avanti. Venite facete più avanti, spazio, avvicinatevi spazio, qui. Sì. We want to pray for you. We want to pray that the Spirit of God would breathe over your life tonight. E noi pregheremo che lo Spirito yes, di Dio there's possa more people respirare, coming. Possa soffiare su di voi. If there are leaders here, would you come and begin to pray for them? Se ci sono anche dei leader, sentitevi liberi di venire, di pregare per ognuno di questi ragazzi. Spostatevi di qua. Avvicinatevi per cortesia. Amen. Come and help us pray for this young generation. I leader possono venire, avvicinarsi e pregare per ognuno di questi ragazzi. I just want to say to this generation, don't let your past define your future. E io voglio dire a questa generazione, non permettere al tuo passato di definire il tuo futuro. But let God and the Word of God and His promise define who you are in Jesus' name. Ma permetti alla parola di Dio, a Dio, di definire chi tu sei in Lui. This is a new day. Questo è un nuovo giorno. God wants to do a new thing in you. Dio vuole fare una cosa nuova. He wants to breathe His breath on you. Lui vuole soffiare il suo soffio in te. He wants to breathe His spirit on you. Lui vuole soffiare il suo spirito He's su di te. He's calling you. Lui ti sta chiamando. And we declare. E noi confessiamo. The promises of God. Le promesse di Dio. We declare that you're going to do great and mighty things. Confessiamo che lui farà cose grandiose e potenti. Things that have never been done before. Cose che non sono mai state fatte prima d'ora. In the mighty, mighty name of Jesus. Nel nome potente, potente di Gesù. Come on and worship Him tonight. Coraggio, adoriamolo questa sera. Church, let's lift our hands. Chiesa, alza le tue braccia, and let's worship Him tonight. E adora il Signore questa sera. In Jesus' name. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.